Capitolo 14. Durante il pranzo il signor Bennet quasi non parlò, ma quando la servitù si fu ritirata, giudicò che fosse venuto il momento di fare un poco di conversazione col suo ospite. Attaccò quindi un argomento nel quale si aspettava di vederlo brillare ed osservò che gli sembrava aver avuto molta fortuna con la sua padronessa. La considerazione dimostrata da Lady de Burgh per i suoi desideri, la sollecitudine per il suo benessere, apparivano davvero degni di nota. Il signor Bennet non avrebbe potuto scegliere meglio. Nel tessere i suoi elogi, il signor Collins si abbandonò all'eloquenza. L'argomento lo elevava a una solennità di modi maggiori dell'usuale, ed egli ebbe a dichiarare, con aria di suprema importanza, che mai in vita sua aveva visto un tale comportamento in una persona di alto rango, tanta affabilità e condiscendenza, quanta ne aveva sperimentata Lady Catherine. Ella si era benignamente degnata di approvare i due sermoni che egli aveva già avuto l'onore di pronunciare in sua presenza. Aveva anche invitato a pranzo due volte a Rosings e soltanto il sabato precedente l'aveva mandato a chiamare per completare il suo tavolo di quadrille di sera. Molta gente di sua conoscenza stimava Lady Catherine, una donna altezzosa, ma quanto a lui non aveva mai riscontrato in lei altro che affabilità. Gli aveva sempre rivolto la parola come avrebbe fatto con qualunque altro gentiluomo. Non aveva sollevato la minima obiezione a che egli frequentasse la compagnia dei vicini, né a che, di quando in quando, si assentasse dalla parrocchia per un paio di settimane per recarsi a trovare i parenti. Si era persino degnata di consigliarlo di prendere moglie al più presto, purché avesse fatto una scelta oculata, e una volta era stata a fargli visita nella sua umile casa parrocchiale, dove aveva pienamente approvato tutti i cambiamenti che egli stava apportando, giungendo al punto di suggerirne qualcuno ella stessa. Alcuni palchetti e gli armadi a muro dei piani superiori. Tutto ciò è molto cortese e a modo, non c'è dubbio, disse la signora Bennet. Mi pare che sia davvero una donna molto simpatica. Peccato che in generale le grandi dame non le assomigliano. Abita vicino a lei, signore? Il giardino in cui sorge la mia modesta dimora è diviso soltanto da un sentieruolo dal parco di Rosings, dove è la residenza di sua signoria. Ha detto che è vedova, se non erro, signore. Ha figlioli? Ha un'unica figlia, l'erede di Rosings e di possedimenti molto estesi. Ah! Esclamò la signora Bennet scuotendo il capo. Allora è in condizioni migliori di molte altre ragazze. E che tipo di signoria è? È bella? È veramente una signorina piena di fascino. Lady Catherine stessa dice che quanto a vera bellezza la signorina de Bourgh è di gran lunga superiore alla più bella del suo sesso, perché nelle sue fattezze v'è quel certo che è caratteristico delle donne d'alto lignaggio. Purtroppo è delicata di costituzione, cosa che non le ha consentito di compiere in molte brache dell'istruzione quei progressi che diversamente non avrebbe mancato di fare. Quanto mi è stato detto dalla signora che si è incaricata della sua educazione e che continua a vivere con loro. Ma è una fanciulla amabilissima e spesso si degna di passare davanti alla mia modesta dimora nel suo calessino tirato dai pony. È stata presentata a corte? Non ricordo di aver veduto il suo nome nell'elenco delle altre damigelle. Disgraziatamente, la sua salute cagionevole le impedisce di soggiornare in città e a causa di questo, come ebbi io stesso ad osservare un giorno a Lady Catherine, la corte britannica è stata privata del suo più smagliante ornamento. Sua signoria sembrò compiaciuta a quell'idea e lei può immaginare quanto io sia felice di elargire ad ogni occasione quei piccoli delicati complimenti sempre tanto accetti alle signore. Ho fatto notare più di una volta a Lady Catherine che la sua deliziosa figliola sembrava nata per essere duchessa e che il lignaggio più alto, anziché conferire a lei distinzione, ne riceverebbe lustro. Questo è il genere di piccole cose che piacciono a Sua Signoria ed è una forma di deferenza che io mi considero particolarmente tenuta a usarle. Lei giudica con molto criterio, disse il signor Bennet, ed è una fortuna che possegga la bravura di adulare con delicatezza. Posso domandare se codeste garbate premure sono dettate dall'impulso del momento o sono invece frutto di uno studio premeditato? Per lo più prendono lo spunto da quanto sta accadendo sul momento e sebbene io mi diverta talvolta a inventare e a combinare quei piccoli complimenti eleganti che si adattano a tutte le occasioni, Desidero pur sempre di dar loro il tono della massima naturalezza. Le aspettative del signor Bennet avevano trovato piena rispondenza. Suo cugino si dimostrava quello stupido che egli si era immaginato, ed egli continuò ad ascoltarlo col più grande sollazzo, mantenendo al tempo stesso la massima serietà d'espressione e, salvo qualche occhiata rivolta di tanto in tanto a Elizabeth, non volle nessuno partecipe del suo divertimento. All'ora del tè, tuttavia, la dose era stata sufficiente e il signor Bennet fu lieto di riaccompagnare il suo ospite nel salotto. Dopo il tè, fu ben contento di invitarlo a far lettura ad alta voce alle signore. Il signor Collins aderì prontamente all'invito e gli fu porto un libro, ma esaminandolo, poiché tutto lasciava credere che fosse di una biblioteca circolante, egli ebbe un moto di spavento e, scusandosi, dichiarò di non leggere mai romanzi. Catherine lo guardò sbalordita e Lydia uscì in un'esclamazione. Furono tirati fuori altri libri e dopo qualche riflessione egli scelse le prediche di Fordis. Lydia sbadigliò nell'istante stesso in cui egli aperse il volume e prima che avesse letto tre pagine con solennità estremamente monotona lo interruppe. «Lo sa, mamma, che lo zio Phillips parla di mandar via Richard e che se decidono in questo senso lo prenderà a servizio il colonnello Forster». Me l'ha detto proprio la zia sabato. Domani farò una passeggiata fino a Meryton per avere altre notizie per domandare quando il signor Danny tornerà dalla città. Lydia fu richiamata al silenzio dalle due sorelle maggiori, ma il signor Collins, molto offeso, ripose il libro dicendo: «Ho spesso constatato quanto poco le signorine si interessino ai libri di genere serio, benché siano scritti a tutto loro beneficio. Mi meraviglia, lo confesso, perché senza dubbio nulla va per loro di più vantaggioso che l'istruzione. Ma non voglio continuare a importunare la mia giovane cugina». Poi, volgendosi al signor Bennet, gli si offerse come avversario in una partita di trick-track. Il signor Bennet accettò la sfida, facendogli notare che era partito saggio lasciare le fanciulle ai loro frivoli passatempi. La signora Bennet e le sue figliole si scusarono molto compitamente per l'interruzione di Lydia e promisero che ciò non si sarebbe più verificato qualora egli avesse voluto riprendere il libro. Ma il signor Collins, dopo averle rassicurato che non serbava ancora la cuginetta e che mai avrebbe ravvisato un affronto in quel suo contegno, si sedette a un'altra tavola col signor Bennet e si dispose alla partita. Capitolo 15. Il signor Collins non era una persona intelligente e le deficienze di natura erano state scarsamente compensate in lui dall'educazione o dai rapporti con la società, avendo egli trascorso il più della sua vita sotto la guida di un padre gretto e ignorante. E sebbene avesse frequentato l'università, egli si era accontentato di seguirvi i corsi obbligatori, senza formarsi in quell'ambiente utili relazioni. Lo stato di soggezione in cui il padre lo aveva fatto crescere gli aveva dato in origine una grande umiltà di modi, ma questa era ormai quasi del tutto controbilanciata dalla presunzione di un debole cervello, da una vita appartata e dai sentimenti derivati da una rapida e insperata prosperità. Per una fortunata combinazione, egli era stato raccomandato a Lady Catherine de Bourgh quando il beneficio ecclesiastico di Ainsford si era reso vacante. La deferenza che egli nutriva per la classe sociale di quella signora, la venerazione per il rango di patronessa mescolate a un alto sentire di sé, della sua autorità come ecclesiastico e dei suoi diritti come rettore, avevano insomma fatto di lui un misto di superbia e di servilismo, di boria e di bassa umiltà. Ora, in possesso di una bella casa e di un'entrata più che sufficiente, intendeva ammogliarsi e nel ricercare la conciliazione con la famiglia di Longbourn aveva appunto in vista una moglie, giacché voleva scegliersela fra le figlie Bennet, se le avesse trovate belle e gentili come le descriveva la voce pubblica. Tale era il suo piano di riappacificazione, anzi di espiazione, per ereditare il patrimonio del padre loro, ed egli lo riteneva eccellente, convenientissimo e praticissimo e da parte sua quanto mai generoso e disinteressato. Nel suo progetto mutò quell'incontrarsi con loro. Il bel viso della signorina Bennet lo confermò nelle sue intenzioni, rinsaldando in lui più rigidi principi di quanto è dovuto al maggiore per età, e per la prima sera fu lei la prescelta. L'indomani mattina, tuttavia, apportò un cambiamento, poiché nel tête-à-tête di un quarto d'ora avuto con la signora Bennet prima di colazione, conversazione che si iniziò con l'argomento della sua casa parrocchiale, che condusse naturalmente alla confessione delle sue speranze che lì a Longbourn si potesse trovarne la futura padrona, in mezzo a compiacentissimi sorrisi e incoraggiamenti su tutta la linea da parte della sua interlocutrice, fu da lei messo in guardia proprio contro quella stessa Jane per la quale egli si era deciso. Quanto alle sue figliole minori, non spettava lei dirlo, non poteva dare una risposta precisa, ma non le risultava che ci fossero impegni precedenti. La sua figliola maggiore, invece, voleva soltanto farne accenno, le sembrava doveroso di avvertirlo che era probabile che si fidanzasse molto presto. Non rimase al signor Collins che passare da Jane a Elizabeth, ciò che fu presto fatto. E fatto mentre la signora Bennet era intenta a riattizzare il fuoco. Elizabeth, la quale sia per età che per avvenenza veniva subito dopo Jane, e successe naturalmente. La signora Bennet fece tesoro di quelle allusioni e confidò di aver ben presto due figliole maritate, e l'uomo di cui fino al giorno prima non poteva nemmeno sentir parlare era ormai salito in alto nelle sue grazie. L'intenzione di Lydia di andare a Meryton non fu dimenticata. Tutte le sorelle, tranne Mary, furono d'accordo di accompagnarla, e il signor Collins, dietro richiesta del signor Bennet, ansiosissimo di liberarsene e di rimanere solo nel suo studio, doveva scortarle. Appunto nella biblioteca, il signor Collins aveva seguito il suo ospite dopo colazione e lì avrebbe continuato ad importunarlo, in apparenza occupato con uno dei più grandi in folio della raccolta, ma in realtà impegnato, salvo brevi intervalli, a ciarlare della sua casa e del suo giardino di Hansford. Una simile prospettiva sconcertava oltre ogni dire il signor Bennet. Nella sua biblioteca si era sempre sentito sicuro di trovare ristoro e tranquillità, e sebbene fosse preparato, come soleva dire con Elizabeth, ad imbattersi in frivolezze e scempiaggini in ogni altra stanza della sua casa, lui si era abituato a sentirsene al sicuro. Per cui diede prova della più pronta cortesia nell'invitare il signor Collins ad unirsi alle sue figliole nella passeggiata, e il signor Collins, in realtà molto più portato per una camminata che per la lettura, fu soddisfattissimo di chiudere il suo librone e di andarsene. Fra vacue ampollosità da parte sua e cortesi approvazioni da parte delle cugine, il tempo passò finché raggiunsero Meryton. Allora l'attenzione dei minori non poté più essere per lui. Subito cominciarono a vagare con gli occhi per la via in cerca degli ufficiali, e nulla più valse a trattenerle se non la vista di una cuffietta veramente elegante o di una mussola all'ultima moda nella vetrina di qualche bottega. Tosto però l'attenzione di tutti si rivolse a un giovanotto, mai visto prima di allora, di aspetto distintissimo, che passeggiava con un ufficiale sull'altro lato della via. L'ufficiale era proprio quel signor Danny per il quale Lydia era venuta ad informarsi se fosse rientrato da Londra, ed egli si inchinò al loro passaggio. Tutte furono colpite dall'aspetto del forestiero, tutte si domandarono chi potesse mai essere, finché Catherine e Lydia decise, se appena fosse stato possibile a svelare il mistero, attraversarono per prime la strada con il pretesto di aver bisogno di qualche cosa nel negozio di fronte. Fortuna volle che appena salite sul marciapiedi, i due signori, ritornati sui loro passi, raggiungessero lo stesso punto. Il signor Danny si avvicinò senz'altro, chiedendo il permesso di presentare il suo amico signor Wickham. Giunto con lui da Londra il giorno innanzi, il quale, Danny era lieto di comunicarlo, aveva accettato un brevetto di ufficiale nel loro corpo. Era proprio quel che ci voleva, perché per diventare del tutto affascinante, a quel giovane non mancava che l'uniforme. Il suo aspetto deponeva ampiamente in suo favore, poteva vantare i migliori requisiti della bellezza, modi distinti, bella corporatura e una simpatica affabilità. Subito dopo la presentazione, egli si dimostrò felicemente disposto alla conversazione, mantenendo tuttavia un tono perfettamente corretto e spontaneo. E il gruppetto era ancora tutto intento a discorrere piacevolmente, quando l'attenzione generale fu attratta da un rumor di cavalli e si videro Darcy e Bingley venire cavalcando giù per la strada. Non appena ebbero scorto le signorine del gruppo, i due cavalieri si diressero senz'altro alla loro volta e cominciarono i consueti convenevoli. Chi parlava di più era Bingley e la signorina Bennet ne era l'argomento principale. stava per l'appunto recandosi a Longbourn e gli spiegò per prendere sue notizie. Il signor Darcy convalidò la spiegazione con un inchino e stava giusto venendo nella determinazione di non fissare lo sguardo su Elizabeth quando gli occhi gli caddero sul forestiero. Elizabeth, che per caso ebbe a notare il contegno di entrambi mentre si scambiavano quell'occhiata, rimase attonita dall'effetto di quell'incontro. Tutte e due mutarono colore. Uno si fece pallido, l'altro avvampò di rossore. Dopo qualche istante il signor Wickham si toccò il cappello, saluto che il signor Darcy si degnò appena di rendergli. Che cosa poteva significare tutto ciò? Era impossibile immaginarlo. Era impossibile non struggersi dal desiderio di sapere. Un minuto dopo il signor Bingley, che non sembrava essersi accorto dell'accaduto, accomiatatosi, continuò con l'amico la sua cavalcata. Il signor Daniel e il signor Wickham accompagnarono le signorine sino alla porta di casa Phillips e qui si inchinarono nonostante le insistenti preghiere delle signorine Lydia perché entrassero anch'essi, nonostante anzi che la signora Phillips aprisse la finestra del salotto per appoggiare ad alta voce l'invito. La signora Phillips era sempre contenta di vedere le nipoti. Le due maggiori, poi a causa della loro assenza recente, furono particolarmente ben accolte. Stava anzi esprimendo calorosamente tutta la sua sorpresa per il loro improvviso ritorno a casa, del quale non avrebbe saputo nulla dal momento che non era andata alla loro carrozza a riprenderle, se non avesse incontrato per caso il commesso di negozio del dottor Jones, che le aveva detto che ormai non dovevano più mandar rimedi a Netherfield, perché le signorine Bennet erano venute via, quando la sua cortesia si rivolse al signor Collins, che Jane le stava presentando. Lo accolse con la massima compitezza, che gli ricambiò rincarando la dose, scusandosi di venire a disturbarla senza conoscerla. Da qualcosa, non poteva meno di lusingarsi di pensare, poteva venir giustificata dalla sua parentela con le signorine che l'avevano allora presentato. La signora Phillips rimase sbalordita da un tale eccesso di buona educazione, ma dovette ben presto cessare di contemplare quel forestiero per via delle esclamazioni e delle domande che piovvero intorno all'altro, del quale tuttavia ella non seppe dire alle nipoti nulla più di quanto già non sapessero, e cioè che il signor Danny l'aveva portato da Londra e che era in attesa di un brevetto di tenente nel Shire. «Era stato ad osservarlo tutta l'ora», raccontò, «mentre egli passeggiava su e giù per la strada, e certo Catherine e Lydia avrebbero continuato in quell'occupazione se soltanto Wickham fosse comparso. Disgraziatamente ora non passava più nessuno davanti alla finestra, all'infuori di qualche ufficiale, ma tutti, paragonati al forestiero, erano diventati individui stupidi e antipatici». Alcuni erano anzi attesi a pranzo dai Phillips l'indomani e la zia promise di indurre il marito a far visita al signor Wickham e invitare anche lui, se la famiglia di Longbourn fosse poi venuta nella serata. Rimasero d'accordo in questo senso e la signora Phillips dichiarò che ci sarebbe stata una bella partita divertente e rumorosa alla lotteria e poi una cenetta calda. La prospettiva di simili delizie era quanto mai rallegrante. E però si accomiatarono nelle migliori disposizioni di spirito da ambo le parti. Il signor Collins ripeté nell'andarsene le proprie scuse e venne rassicurato con infaticabile cortesia che esse erano assolutamente superflue. Mentre camminavano verso casa, Elizabeth raccontò a Jane quanto aveva visto svolgersi fra i due giovanotti e Jane, sebbene pronta a difendere l'uno o l'altro, addirittura tutti e due, se si fosse dimostrato che era in torto, non fu meglio in grado di sua sorella di spiegare quel contegno. Tornato a casa, il signor Collins si rese estremamente gradito alla signora Bennet, con l'esprimere la sua ammirazione per le squisite maniere della signora Phillips. Ebbe a dichiarare, infatti, che all'infuori di Lady Catherine e sua figlia non aveva mai incontrato una signora così distinta, giacché non soltanto l'aveva ricevuto con la massima urbanità, ma l'aveva anche espressamente incluso nell'invito per la sera dopo, benché sino allora fosse stato per lei un perfetto estraneo. In parte, egli supponeva, la cosa poteva attribuirsi alla sua parentela con loro, ma tuttavia mai nel corso della sua vita egli era stato fatto segno a tanto riguardo. Capitolo 16. Poiché l'impegno assunto dalle giovinette con la zia non incontrò alcuna obiezione, e poiché a tutti gli scrupoli del signor Collins per lasciare soli i signori Bennet durante un'intera serata del suo soggiorno venne opposta la più strenua resistenza, a un'ora conveniente la carrozza trasportò lui e le sue cinque cugine a Meryton. E qui, nell'entrare in salotto, le fanciulle ebbero il piacere di venire a sapere che il signor Wickham aveva accettato l'invito dello zio ed era già arrivato. Ricevuta questa notizia, accomodatesi tutti ai loro posti, il signor Collins ebbe agio di guardarsi intorno e di ammirare l'appartamento, le dimensioni, l'arredamento del quale lo colpirono a tal segno che gli ebbe a dire che gli sembrava quasi di essere nel piccolo tinello estivo di Rosings. Il paragone lì per lì non fece né caldo né freddo a nessuno, ma quando la signora Phillips venne da lui edotta su ciò che era Rosings e chi ne era la proprietaria, quando ebbe ascoltato la descrizione di una delle sale da ricevimento di Lady Catherine ed appreso che soltanto il caminetto era costato 800 sterline, allora capì tutta l'efficacia del complimento e non si sarebbe risentita neppure di un confronto con la camera della domestica. La descrizione di tutta la magnificenza di Lady Catherine e della sua dimora, intercalata con qualche occasionale digressione a favore della sua modesta dimora e delle migliorie che vi stava portando, tenne il signor Collins felicemente occupato, finché gli uomini lo raggiunsero. Nella signora Phillips aveva trovato un'ascoltatrice molto attenta, nell'opinione della quale egli andava crescendo di importanza man mano che il racconto proseguiva, mentre lei maturava la decisione di diffondere al più presto quelle notizie fra il vicinato. Per le ragazze che non potevano ascoltare il cugino e che non avevano altro da fare se non desiderare un pianoforte ed esaminare le loro banali imitazioni di porcellana cinese sulla mensola del camino, l'intervallo di attesa sembrò lunghissimo, ma finalmente ebbe fine. Gli uomini si avvicinarono e quando il signor Wickham entrò nella sala, Elizabeth sentì che l'ammirazione provata per lui al primo vederlo e poi nel pensarlo non era stata menomamente irragionevole. Gli ufficiali del Shire erano persone raccomandabilissime, molto fini e migliori fra loro parteciparono alla festa, ma il signor Wickham era di tanto superiore a tutti per la figura, il contegno, l'aspetto e l'andatura, quanto essi superavano quel grassone del zio Phillips che con la sua faccia tonda e quell'alito di vino di porto li stava ascoltando dentro la sala. Il signor Wickham fu l'uomo felice verso il quale si volse quasi ogni occhio femminile ed Elizabeth fu la fortunata fanciulla accanto alla quale egli prese finalmente posto. Il modo simpatico col quale iniziò subito la conversazione, sebbene questa vertesse unicamente sul fatto che la sera era umida e sulla probabilità di una stagione piovosa, le diedero la sensazione che l'argomento più comune, più trito e insignificante potesse acquistare interesse grazie all'abilità del parlatore. Con rivali della portata del signor Wickham e degli ufficiali, il signor Collins diventò assolutamente insignificante. Per le signorine, difatti, egli contava zero, ma ebbe tuttavia a diverse riprese una gentile ascoltatrice nella signora Phillips, la cui sollecitudine valse a rifornirlo abbondantemente di caffè e di torta. E l'occasione di contraccambiarle le sue cortesie gli soffrì dopo che furono approntati i tavolini da gioco ed egli si dispose ad una partita di whist. Per ora non conosco molto il gioco, disse, ma sarò lieto di far progressi poiché la mia posizione in società. La signora Phillips apprezzò assai la sua compiacenza, ma non ebbe tempo di ascoltare le sue ragioni. Il signor Wickham non giocava a whist e con vivo piacere venne accolto all'altra tavola fra Elizabeth e Lydia. Sulle prime si prospettò il pericolo che Lydia l'assorbisse interamente perché era una parlatrice instancabile, ma essendo non meno appassionata per il gioco della lotteria, ben presto vi si entusiasmò e si dimostrò troppo pronta a far scommesse e a commentare con esclamazioni i premi per potersi anche occupare di qualcuno in modo speciale. Pur facendo qualche concessione alle comuni esigenze del gioco, il signor Wickham poté conversare a suo piacere con Elizabeth, che era del resto ben lieta di porgergli orecchio, sebbene non sperasse certo di udire ciò che più gli interessava di sapere: la storia della sua conoscenza col signor Darcy. Non osava neppure fare il nome di questi, quando tuttavia la sua curiosità fu inaspettatamente soddisfatta. Fu lo stesso Wickham a entrare in argomento. Domandò quanto distava Netherfield da Meryton e, avuta ne risposta, si informò in tono esitante da quanto tempo il signor Darcy si trovasse colà. Da circa un mese, rispose Elizabeth, e poi, desiderosa di non lasciare cadere l'argomento, soggiunse: Possiede una vastissima tenuta nel Derbyshire, a quanto ho udito dire. Sì, rispose Wickham, una proprietà nobiliare. 10.000 sterline nette di rendita annua. Su questo punto non avrebbe potuto conoscere nessuno più in grado di me di fornirle certe informazioni. Sono stato legato alla sua famiglia in modo speciale sin dalla mia infanzia. Elizabeth non poteva fare meno di mostrarsi sorpresa. Può davvero essere sorpresa, signorina Bennet, di una simile asserzione, dopo aver visto come probabilmente non le è sfuggito quanto sia stato gelido il nostro incontro di ieri. Lo conosce bene il signor Darcy, lei? Più di quanto non avrei mai desiderato, esclamò con calore Elizabeth. Ho passato 4 giorni sotto il suo stesso tetto e lo trovo molto antipatico. Se sia simpatico o meno, disse Wickham, non aspetta me a giudicare. Non sono la persona adatta. Lo conosco da troppo tempo e troppo bene per poter essere buon giudice. A me non è possibile essere imparziale. Credo che l'opinione che lei ha di lui desterebbe meraviglia in generale. Forse lei non l'esprimerebbe con la medesima energia fuori di qui. Qui lei è in casa sua. Le do la mia parola che non dico qui più di quanto non sarei pronta a ripetere in qualunque casa del vicinato, ad eccezione di Netherfield. Non è punto popolare nello Hertfordshire. Tutti sono disgustati della sua superbia, non troverà nessuno che gliene parli con maggior simpatia. Non posso fingermi addolorato, fece Wickham dopo una breve pausa, che lui o chiunque altro sia stimato per quel che si merita. Ma a lui credo che la cosa non succeda spesso. La gente è accecata dalla sua ricchezza e dalla sua autorità, o spaventata dai suoi modi altezzosi e superbi, e lo vede unicamente sotto la luce che piace a lui. Anche per quel poco che lo conosco io, direi un uomo di un pessimo carattere. Wickham si limitò a scuotere il capo. Chissà, riprese quando gli fu nuovamente possibile parlare, chissà se rimarrà ancora lungo da queste parti. Io non ne so nulla davvero, ma mentre stavo a Netherfield non ho sentito affatto parlare di una sua partenza. Spero che i suoi piani in rapporto al reggimento non saranno compromessi dalla presenza di Darcy in questi giorni. Oh no, non sono certo io il tipo di farmi cacciare via dal signor Darcy. Deve essere lui ad andarsene se desidera evitare di vedermi. Non siamo in buoni rapporti e l'incontrarmi con lui è sempre motivo di disagio per me, ma non ho ragioni per evitarlo che non possa proclamare davanti al mondo intero. La sensazione di essere stato trattato molto male è il più sincero rammarico che egli sia ciò che è. Suo padre, signorina Bennet, il defunto signor Darcy, fu uno dei più grandi galantuomini che mai abbiano respirato l'aria di questo mondo, l'amico più fedele che io abbia avuto. Né mi capita ora di trovarmi in compagnia di questo signor Darcy senza essere turbato nel più profondo dell'anima da 1000 teneri ricordi. Il suo contegno nei miei confronti è stato scandaloso, ma sono pronta a credere che sarei disposta a perdonargli ogni e qualsiasi cosa, salvo l'aver deluso le speranze e macchiato la memoria di suo padre.